Avanti, chi è? Chi è? Chi c'è in questo canale? Chi è? Chi è? E chi è questo ranocchio? Non stai uscendo. Non stai uscendo. A pigliare la... a qualche luogo. Chi è? Chi è? Chi è? I carabinieri. Va ammazzati. Quanto? Ma tu eri a poc'anzi. Hai visto, perché hai rotto le balle a cosa, Graziano, Giuseppe, eh? Ammazza, attenzione che il caffè esce nel traverso qui, eh? A me nuda, no? Se mi sto mangiando il savoiardo col caffè, me lo offri. Curare tu, bizzino, un savoiardo, cazzo, attenzione, mi, uia, Tore. Ho capito, Giuseppe, non sei tutta cosa, singhiozzi. Ho detto che sta mangiando il savoiardo nel caffè. Col caffè, ha detto. No, nel caffè. Col caffè. Cioè l'ha bagnato dovento. Sì, il savoiardo, no. Curare non si deve riportare. Il savoiardo col caffè. Non discorsi lunghi, morbidi. Sì, tanto bene. Io pensavo che era lungo e duro. Soffice, soffice, la piuma secca, buono è. Buono era, buono, è a me nuda, no, grazie. E Antonella adesso che te lo faccia, il vero Antonella. Di marmo. Il barrato. Si va a venderti. Il barrato, cazzo, beh. Gufo, gufo triste, beh. E dove sei, a casa? Ehi, aspetta che sto mangiando, se no mi fai affogare. Tanto lei, e te va? Ehi, sentito l'ora. E beh, e allora? Cosa sta combinando, Antone? Nulla, mi sto rilassando adesso. Poi alle 6:30 vado, e lo spingo, mi faccio la spesa, poi porto quell'antenna per tuo nipote e poi me ne salgo a casa. Ieri notte ho fatto, le 2 di notte ho fatto. E dove eri? Ah, Giampiero stava bene. Quindi sono rimasto dalle 9 giù, di là, fino alla 1:30. E come mai? Cos'è successo? Qualcosa di... Si è sciolto in merda? No, dove abbasso il vento c'aveva e... Il carpetto in pratica era qua, non era lento del tutto, capito? E quindi gli faceva un bel male, gli bruciava, gli hanno sistemato. Capito. Beh. Ognuno i problemi, no? Ogni tanto i problemi. È bello che là c'era un caldo da crepare, figurati, in quel cazzo di ospedale. C'è il pronto soccorso, sala d'attesa, mi capito? Non sono uscito fuori perché era pieno, se no mi fregava la cadrea. Ma perché? Ricoverato è già pieno? No, l'ha rimesso ieri notte all'1:30, l'ho rimesso. E quindi a trovare, tu immaginati, quando devi telefonare, cercare qualcuno a portarti a casa è un casino, sembra di fare di grattare il gatto e vinci, a vedere chi ti risponde. Di sera, capito? Prima ti rispondevano di sera, adesso non ti risponde più nessuno. Non lo sapevo, no, non sapevo niente. E ieri notte, vabbè che non c'ho macchina, ce l'avrei fatto io. E come l'avessi portato? Ma tu sì, no, lascia perdere. Ma con carrozzino l'avevo portato ieri notte. A parte che pesa, quindi. No, non l'ho portato il corso, ma se nel soccorso l'ho portato. 30 euro e l'ha legato alle 2 di notte. Già l'ho fatto bene, meglio così, almeno sei più tranquillo. Ehi, non ti credo, quando sei di là è un casino, ti viene lo stress. C'era che cosa? C'era Babbo Natale, ho visto Mario Babbo Natale, non mi ha riconosciuto, l'ho riconosciuto io. Aspetta. tanto c'aveva problemi la moglie. Già solo un giorno c'è da quello, ma dimagrito? Sempre uguale. Sempre grasso, Via. Già solo un giorno c'è da quello, ma non te l'ha riconosciuto a te, no? No, evidentemente l'ha preso per la via della moglie, non me l'ha riconosciuto. Infatti non mi sono neanche avvicinato. Vabbè. Beh, grazie. Pigliato dai questo caffè. Grazie. Ah. Sta infilando il biscotto in mezzo all'acqua. Cosa caffè? Ce ne vuole a pigliarci questo caffè con il savoiardo. Allora, bubu. Bubu. Oh, sei uscito tu? Dove uscivo? Sono senza macchina. Stamattina sono uscito il tram. E dunque ho preso alle 11 per un quarto il tram, sono andato un po' da ricco, poi a mezzogiorno e un quarto ho pilato nuovamente il tram. Ho capito. No, io mi ci scendo al ritorno dello spia, adesso ci passo. Mi piglio un po' di farina per stanotte, alle cipolle, ma poca roba, ma intanto per assaggiare. E poi me la mangio a casa. Fai bene. Io una cosa, Torre, informati qualche moto secondo mano a pagare poco, 100-150 euro. Adesso chiedo se qualcuno ce l'ha, cosa ne vuole un bel, ne voleva 300 euro di quello scooter, dice che era nuovo, però no, a cosa, se me la, a Roberto glielo chiedo, adesso vediamo un po', magari lui qualche amico ce l'ha. Di qualche moto non se ne fa niente, magari che uno che non riesce a pagarsi l'assicurazione e se la vende per quello. Cazzo, avrà detto di Massimo, cazzo, gli ho chiesto quello scooter, cazzo, mi dai 700 euro e te lo sto dando, cazzo, ho detto, attaccatela a culo, ho detto. E che scooter era? Non era 50 o no? 125 sarà stato. No, 50, quello, il ah, c'è anche di meno scooter, basta andare a coso, domani ti fai un giro, tanto è aperto. Dove vendo le moto a seconda mano, via Santa Maria di lì, a Via del Conci, ti fai un giro di lì, di chiedi a quel meccanico se c'è moto che no, cioè in pratica che sono state versate e non ritirate, gli chiedi quanto ne vuole, se c'è documenti e te la prendi lì, tanto già ce ne hanno, un sacco di gente prende lo scooter, quando sente il zocco non lo ritira nemmeno, hai capito? Ma dove? Dove Antonio? Dove stai dicendo? Via del Conci. C'è appena per avanti di lo spin, c'è quel meccanico. A me mi aveva regalato due scooter, mi aveva regalato quello rosso e l'altro grigio che avevo avuto un altro tempo fa. Mi aveva regalato due, figurati. Cioè in pratica la gente prende la roba e poi non lo ritira, capito? Quando sente il zocco della riparazione, per dire, e non le va la candela alla moto, allora prende e lo lascia lì, hai capito? Prende lui e se li rivende. Una volta che è passato 6 mesi o 7 mesi della riparazione, capite? Se lo vende recupera i soldi che ci ha messo. Sì, devo capire domani, dopo che porto quel curriculum lì alle agenzie, ci passo a vedere un po' cosa ne c'è pure. Chiedi, non costa niente chiedere, ci ascolti. Non è che c'è qualche scooter che qualcuno non abbia mai versato, riparato e non ha ritirato. Se dice sì, ce n'è uno, ti va bene questo, lui dice quanto ne vuole. Lui dice 100 euro. Non va bene, tanto la vengo me lo ritiro, dici. Ti fai l'assicurazione e sei a posto. Adesso vedo un po', dai. Adesso io lo provo a chiedere e poi domani ti farò sapere, dai. Io avevo pagato così, 100 euro, anzi 100 euro, me l'aveva regalata addirittura, dice vai vieni ti riprendi, mi ha detto, sceglietene uno, ce ne aveva tre di moto, cioè, c'aveva addirittura Moto Guzzi, ah io ho detto no, di quelli non ne voglio, io, quella roba non ne voglio, non me ne frega niente, ma era Moto Guzzi di quelli vecchi con le frecce tonde, un 125 mi pare che era, quindi chiedi, non costa niente chiedere. Cioè, sono tanti meccanici a Sassari che stanno vendendo roba che in pratica non ritirano. C'è un sacco di gente che lo sa che porta la moto a riparare, poi la perde, la lascia lì e se la compra nuova. È come i baracchini, per dire, o i televisori. Lo portano lì in laboratorio, quando sento il zocco, no, lo vado a città mercato, me lo prendo nuovo, te lo lasciano lì, capito? Ho capito, vabbè, dai. Ci sentiamo più tardi, dai. Ciao, ciao. No, aspetta, perché? Ma Giuseppe non ho, c'ha solo questo qua, non c'ha 27, devo sistemargli l'antenna questi giorni. Oggi c'era vento, gli passa di vento. Appena sistema l'antenna entra in 27 anche lui. E già carica piano piano, non ti preoccupare, tanto mi alle 6 poi prendo e vado via perché vado a farmi la spesa. Sì, ok, mi c'è cosa su 5 ho visto. C'è cosa Marco su 5 ho visto, in macchina. Che hai visto? C'è Marco Condo sul canale 5 parlando in macchina a città mercato. Cazzo, un sciabucco, un altro guasto, mi cazzo. Proprio cazzo è diventato proprio ebreo quello. Allora, ui ui là. Cugia lì, dai. No, no, lui... Attacca la testa, perché non ragiona bene con quella testa che c'ha. Perché non fa il foglio ISE? Già lo fa, mi ha detto, già lo fa. No, ma lui c'ha problemi, c'ha qualche problema, cazzo, la testa non ragiona molto bene il ragione con quella testa che c'ha, cazzo. È esaurito un po' quello. Se lo fa il foglio ISE anche perché gli servirà, capito? Anzi, serve, non è che gli servirà, serve per forza. Sono manca a lavorare e può entrare. Purtroppo ti chiedono quello adesso, condizioni economiche, hai capito? E poi ti mettono in gradatori, senza di quello non fai nulla. È come avere una volta si versava il libretto di lavoro, adesso quello non serve più a niente, basta il foglio ISE e sei a posto. E il foglio di disoccupazione, non serve altro. Vabbè dai. Ci sentiamo più tardi, devo uscire, dai. Devo andare a prendere niente. E io, d'accordo, ok. Ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao, ciao. È tornato, sì. È tornato a coso. Nello spi. Parco da casa solo. Alle 6 esco. Vedo il... scendo a piedi fino a cosa, arrivare dallo spi. Poi vado e faccio la spesa. E poi me ne trovo in tram. Ah, per carità, guarda, non li posso vedere qui. Meno ci vado, meglio è per me, perché se mi viene le cose, mi viene la sciatica quando entri di qua dentro. Questa non è gente da... Io non so come abbiamo fatto a fargli lavorare questi quattro che ci sono qua. Caffoni, no? Che non le possono più, capito? Voglio essere con quattro dei clienti. Se ci sono 20 persone, una cassa sola e tutti gli altri a passeggio. Io non so quante volte l'ho beccata quella grassa che c'è qui di qua, che se ne va, andava alla CC a giocare, capito? Allora arrivo in lavoro, andava a giocare alle macchinette e la collega lì alla cassa al posto suo. A 30. Questa moto è 5 e mezzo apre. No, non ci vado adesso, ci vado dopo, ci vado, scendo a piedi anche. Faccio una passeggiata, piano piano. E mi l'ha fatta assare quella a me. Scendo a piedi meno, faccio una bella passeggiatina che fa bene alle gambe. No, ma così. Sarà in giro, sarà. E vabbè, quello che c'è, ci metterà, cosa ne so io. Deve pensare a me, no? Uiuia. Cosa hai preso? Pesce hai preso? Oggi ho mangiato con le sardine, buone, di lusso sono uscito, fate con lo sughetto. Io, per carità, no? Non riesco a digerirli io, capito? non mi sono mai andato sceso giù i cetrioli, manco quando io li piantavo a babbo, figurati. Pomodori, sì, zucchine, quello, poi altra verdura, quella che c'è, ma cetrioli proprio non ci scendono, non riesco a digerirli. Vabbè, cetrioli grandi non servono a niente, è come mettere le zucchine, una volta che sono grandi tutto seme non servono a niente. No, c'era Graziano poco fa, stava facendo una merenda, mi ha detto. Poi si è spostato in 27, mi pare, perché c'era la batteria a mezzo scarica. Giuseppe c'era poco fa, è andato per Daniele adesso, mi è uscito a fare la spesa. No, quello me lo bevo io, ha giocato davvero, non ho capito. No, già va bene quello che ho preso. È bianco, è dolce, è buono, è leggero e fa bene anche alla pressione e tutto, e non ti gonfia, ma è buono, cioè è vino, non è che sia altra cosa, capito? È buono per quello, c'è sapore di vino vero e proprio, è bianco, non c'è neanche lo metto in frigo perché io ho 12 gradi a casa, non è che ci abbia questo grado di caldo, proprio non ne ho qua, quindi rimane fresco, non è che devo bello ghiacciato, così quando mangio la roba calda mi rimanono sullo stomaco. E vedrai, fra 5-10 anni, capito, faranno l'auto che andrà vino bianco, vino rosso. Tanto ormai le pompe ci sono già, non fai altro che aprire quel portone, incifri la macchina dentro, rifornisci. Ti credi che non va di bene? Da allora possono fare quello che vogliono, anzi se ci mettono acqua a vita è ancora meglio, capito? Ma voglia che prende fuoco l'acqua a vite. Dove è l'etere? I pesci miei, ma quali sardine? Sì, vabbè. Io quelle sardine penso che siano di roba sarda, perché sono piccoline già si nota. È strano è strano che le facciano vendere subito, non fanno toccare nulla, a meno che non sia roba di... magari che arriva dalla Spagna, e lì puoi pescare anche i pesci piccolini, per dire. Di subito quando non li fanno toccare niente, ma a meno che non sono sardine di allevamento, è appunto per quello stavo pensando anch'io, ma sembrano più roba di allevamento quella mia, perché se è notato bene non c'è nessun buco di amo né niente, quindi è roba che prendono con una specie di raffella, come lo vuoi chiamare, capito? Evidentemente roba di allevamento. Sì, la rete è un po' grande, se la rete è fine, perché se no già cercano dritti, quindi sei tranquillo, sono piccoli, ti hai visto quanto sono lunghi e quanto sono larghi. Allora si rimano. Si è piantato la pastiglia alle 3, adesso fra poco già ti passa il dolore. Già ti passa piano piano, non ti preoccupare. Ciucucciu! Piano piano dove passano. Se la farà l'effetto la pastiglia, già sei tranquillo. Insomma, basta mettere le mani vicino al coso, al giro addosso. E sicuro. Siete tuffo! Niente! Siete tu gufo! No, c'è gufo! E io, Antonio, Topolio, Antonello! Dimmi, grazie! E ho attaccato l'altro, bene sta uscendo! E ha voglia, segnale quasi 9! E io! Avanti, e io! Non ha sentito a io! Elio, perché Elio? Luca Montanaro! Aspetta, questo! Sì, mito sì! Mito sì! A me! È fuggito! Se ne apri bene un caffè, Antone! Senz'altro, magari caffè, la mazza caffè! E allora, va! Ciao, io mi ho bevuto un fermenti lattici, vitamine! Ma non vivi quei fermenti lattici, o morti ero? Vivi! Allora già va bene. Uno al giorno fa bene, così dici. Ehi, tu gufo! E io? Capito sì! sveglia solo. Attenta cuffa. Cuffata. Insieme a Antonella. Senti Antonello. Dormito sì. Antonella dormito sì. No, io sono sveglio po'. Ciao Luca. Dormita sì. Bella pe. Marina. A Civina mettemi la crema, grazie. Ho detto, Civina mettemi la crema. Chiama Luca Gufo. Antonello, ci va a mettere la crema? No, saranno. Se ci vuole la saporetta. Così pollice greggio. Lui ci vuole la saporetta. Non ne metto crema io, no. Io metto catrame. E beh, Gian Marina. Momento sì. Antonello, cosa si chiede leoncino? Cosa gli serviva? Una moto, 50. Ma lui è una bella assicurazione, mi pare sui 400, pa un cinquantino. Lui mi sembra sono 300, o 350, se non te lo so dire. Io pagavo 500 e qualche cosa dal Vespone, l'ho fatto fuori subito. E allora? Non saranno. Più il bollo, ma buffonendosi. L'hanno fatto apposta per eliminare tutti quei ragazzini che avevano tutte quelle motorette. Se lo serviva di poca niente, aveva. Prima era in vaso. Se tu vi esercitate, cioè io che ne vedi a parecchie buttate. Oh, sì. Però non ce ne sono in vendita, è pieno. Non ne piglia più nessuno, l'assicurazione è troppo per essere un cinquantino. E ya, te la compri cinquantino? Oramai va di moda la bicicletta elettrica, Antone. Arrado, ti vedi a lì? Antonello, cosa stai facendo? Ecco, Topolio. Antone, chiuso hai? Quali hai preso i fermenti, grazie a? Ah? I fermenti, i lattici vivi, quali hai preso? Quelli misti? E quelli in confezione, ci sono alla fragola, misti. Io bevo quelli misti, guarda, veramente, se no tutti aiuta. A me mi aiuta un bel, la verità, non mi tiene, boh, non lo so. E non, sembra che ti sgonfila lo stomaco. Ma io me li prendo quasi ogni giorno, no? Qualche volta me ne dimentico. A me che effetto mi fa? Sono sempre gli stessi. Me li prendo perché dice che anche il medico mi ha detto fanno bene, va bene, già mi ripiglio. Io le prendo perché mi hanno detto che fa passare il mal di testa. Il mal di testa? Ciao Luca Gufo! Non lo so ma cosa, non me la metto, me l'aveva detto. Cioè li compro. Oh, lì quelli all'ospedale sono buoni. Anche il Gatorade mi compro, quello verde però mi piace, quello arancione no. Ehi, no, è già mi disfetta, quello al lemon. Quello Star Blues scritto, ma non me la metto. Cioè ti disfetta già. E come c'è Coca-Cola l'aranciata? Chissà, la Coca-Cola mi imbuffa, l'aranciata, non ma a te, già mi piace, ma ne bevo qualche bicchiere di quelli di plastica, una volta ogni volta di babba, intanto per assaggiarla, se no non è che mi piacciono. Grazie, ma sono 27. E cosa? Il microfono da tavolo, ce l'hai per caso? E che cos'è? 27. Cioè, le metti più 4, le metti più 5, le metti più 7, ce l'hai tu. Il più 7, quello che c'ha il pip e l'eco. Ma il microfono? Ehi, il microfono, sono della ZG. Le metti più 4 e le metti più 5. Vabbè, no. Comunque Lu, No, strano, perché quei cavi là agganciati al relè, io il relè l'ho staccato proprio, l'ho disaldato dalla scheda madre, dalla schedina là, e mi segna sempre portante. Qualche filo di corto. No, tu non lo puoi aprire perché sono quelli, capito, quelli usa getta, dai. Vabbè, cambialo. Sono tu gusta, 15 euro. Sono tu gusta per un microfono, mi raggio pure così. Costa intorno ai 100 euro quel microfono lì. Ah, ce l'hai tu uguale? Ce l'ho anch'io. Costa intorno ai 100 euro però quel microfono, capito, rispetto ai 40 dell'MP4, così. Ah, scusa, perché non mandi la foto del circuito allora? Dopo te la mando. Ma sono tutte uguali, massa e nero, mi pare. No, tu mandami la foto, come sono collegate, agganciati i fili. Che sicuramente lì, comunque, qualcuno ci ha cagato dentro, perché le saldature sono troppo grosse. Le ho tutte rimesse bene. E adesso vanno bene, non perché li ho fatti io, ma cazzo, cioè non sono saldature da fare quelle, sono grandissime. E poi lo stagno era di chi, sul stagno dei 13 che ne buco, non so chi l'ha toccato, boh. Aspetta, cancellando un po' di roba al telefono. Vabbè, mandamelo lui, dai, così domani mattina con calma, tanto, vabbè, con calma, domani vado al medico per questo polso, già non mi fa meno male con questa schiuma che mi sono comprato. Però c'è sempre, o non lo muovo fare, trac, trac, trac, trac, trac. E allora quello di RC. Ah, però non sto scherzando, sembra che sia qualche osso che sta toccando, cosa ne so, cos'ha arrugginito, buh. Tendinite. Sì, cazzo, ma tu dove sta tendinite? Tendinite, Mara, senta passare, per l'obbi. Ma guarda, io ho sempre aiutato in cantiere, anche al comune. Con la paletta ho sempre aiutato, non mi è mai successa una cosa del genere, mai, mai, anche a scuola, nella manetta una cara, mai. Mi sembra strana la cosa, non, in passato passavo da solo, vedi un po', come ti ho detto tu, mi si era bloccata la schiena, passando calcestruzzo, quello sì. Però la mano non mi è mai successo niente, è una cosa un po' strana. A me pure non mi faccio male la schiena, da 10 anni avanti, purtroppo. Ma dico, non mi è mai successo in cantiere, ho lavorato, non è che non ho mai lavorato. Vabbè che sono anni e anni fermo, ma... Ma ti fare il massaggio da gufo? Sì, gira, gira, mi faccio mettere la crema da gufo. Gufo, me la metti la crema? Ah, oh, può portare a me la crema? Quello è perché li fermo un sacco di tempo e quel movimento non lo facevi più e adesso l'hai fatto, l'hai sforzato... E ti ha causato l'infiammazione ai tendini, capito? E cosa ti ha fatto? Perché oramai erano abituati a essere praticamente rientrati, bloccati così, senza fare movimento. Praticamente si erano abituati a dormire, a vari tu la sveglia, sono movimenti. Così impari! Per carità, vabbè, tanto che non è gelosa la Rosy, io, vieni a mettermi la crema. Ehi, se vieni tu me la metti tu, ti do un bacio in bocca! Lingua, lingua, ugola, ugola, vero Luca Gufo? Vai che Rosy sia gelosa dopo. È come quel canto libero. Vabbè. Comunque lui fai quella cosa là, dai. Dai, così lo sistemiamo. E me lo uso, ma me lo porto qua, lo attacco qua. Questo baracchino mi ha dato Graziano. Vediamo un po' se fa sempre quel problema. Mi serve la foto di sotto. E poi se ci riesci, ma penso che ci riesci, a misurare dove ti ha agganciato la calza e il nero. E vedi se a te il relè ti sale. Cioè ti segna nel tester. Cosa si nappa? Quindi zero lui. Cosa si nappa a fare? Secondo me non c'ha niente. C'è un qualcosa nel PTT, boh. Comunque l'ho provato il PTT dove c'è la portante che è calza nero del mio microfono. E schiaccio e sale, molle e scende. Boh, non lo so. Carufo, perché ti sento basso oggi? Luca, mi tocca fare a fare a bassa. Ma a me senti basso, a me? Se ti senti abbastanza forte, infatti quando parli tu mi tocca bassa, quando parli da Luca ti bassa. Sì, adesso lo fai che fai l'aerosol, ti usare con cosa devi fare l'aerosol? Guarda il microfono! No, è per l'aerosol. L'aerosol? Sì, capite, se... alza un po' il volume, perché ti sento basso, mi. Luca, abituato a sentirti, Pirfantello. Mi pari. Giù. Perché ce l'ho lontano, grazie a... Capito, sto facendo roba col telefono. Mettitelo un po' più vicino, non c'è il microfono da tavola. Cosa l'ho portato? Sì, non te l'avevi fatto lì anche il microfono. Solo, ma la roba la carico in macchina, domani te la prendi. Solo, non so se ho gombo, se ti chiudo. Allora, non ti piace quella fine che fa questo? Beh, in effetti è un po' sottile già la fa, quella senza cipolle. Ma che... Grazie, non è che sia questo granché. No, non lo so, l'ho mangiata che c'è un po' di fame, comunque no, non è questo granché. Secondo me la migliore è via Usai. E la fa anche buona, sai dove? Me l'hanno detto perché l'hanno mangiata, gente che conosco. Lì a Badimanna c'è questo tipo che fa le pizze buone e la fa in ma ce la fa molto molto buona. Però non so se fanno consegna a domicilio, non credo. Sì, infatti, non è il bilibino che fa, qualche pizzetta di Siminore, bilibù. Erano più buoni quelli di Sant'Orsola. La fanno lo stesso, quello che c'è a Sant'Orsola. No, la migliore qua in zona, secondo me, è la Ruota. Voglia di pizza e boh. Sotto già le fa buone, anche la fanì, però non te ne fate consegna a domicilio, devi andare tu. Ma se fa finzione a mangiarsi, tia. Allora, cosa vuoi pensare? Tanto poi moriamo, con voi li mangiamo un bel avà, e non vi pensiamo più. Ah, io sono vivo, Buonasera. Buonasera, intanto cosa avremmo? Più che mangiare pulimmo. Tu che l'hai mai presa lì a Sant'Orsola? Saluto sì. Beh, non ripiglia. Tutti caduti. Bebe. Ma mi piglio un bacio a Perugina. No, sono qua, grazie. Che mi ha mandato il circuitino, Luca. Ah, ti ho detto, non hai mai preso lì a Sant'Orsola. Noni. Io prima la prendevo lì, è buona, anche la pizza. Sì, vabbè, dalle 8:30 è arrivata meno un quarto qua. Ehi, questa già te la consegna subito. E due bassi. No, ma che vuole Sant'Orsola, viene te la porta in macchina. È calda buono. Non lo so. Allora viene un signore in macchina, pari appena bugata, ha fatto la gibbiata, quando ha aperto la scatola ne esce di bururu fumo, appena fatta. C'è Maria, ha mormito, C'è Maria, sì. Luca, adesso ti mando su WhatsApp, aspetta, ti mando una foto. Luca, Messenger ce l'avevi tu. E cos'è, grazie? Boh, non me lo apre. Ma? Non te lo voglio, non lo vedi su Messenger. Non me lo apre. In offerta speciale, compri due, paghi uno, compri due, l'altri, 64 euro. Graziano. Hai visto? No, ho chiamato grazie a A chi? Luca, Natalino sono. Avanti, chi è? Natalino sono, mi senti? Ehi, a po' passaggio. Ti sento più bene. 1, 2, 3, vai. Sì, ciao Natalia, adesso già ti sento. Come mi senti? Bene a me? Sì, no. Mi senti bene? Ti sento benissimo. E anche tu arrivi bene, c'è anche Luca Montanaro, lo senti? Sì, io che già lo sento benissimo, io a Luca lo sento sempre bene. Ehi, ok, vai Luca. Sì, di Aldo, dove vado, grazie? C'è il Natalino, non l'hai copiato. Aspetta, Natalino, Natalino. Sì, sei nel casino. Aspetta, Natalino, Natalino. Sì, alla Leare in Cubo, è passato Bonavetti. Chi sei, comito sì? Natali. Natalino, hai sentito cosa ti ha chiesto? No. Perché se sei dormito? No, non sono dormita, se sto parlando sono sveglio. Dove? Finalmente è successo, grazie a rimani. C'è il pacco, chi c'era un pacco? Grazie a. Il pacco! Pacco c'ha! Da, ci sentiamo alle prossime. Tanto non mi sentite bene evidentemente. Sento benissimo. Io ti ascolto, forte chiamo, Natali. Oh, stai uscendo. Attento, gufo. Hey, you. Chiamali. Lu. Luca. Ciao a me. Stai mangiando per spingare, va Luca, che sta. Hai capito, me lo prendo. E Lu. Pino. Pino. Usa palla, Pino! Figlia, adesso cercavo ancora sul PC. Capita, ma Trento si è entrato, Bazzicalla. Sono un po' incasinato con un router e quindi sto cercando di fare le cose che meglio credo. Io devo cercare quella antennina, perché è senza antennina quello che ho io. Non so dove cavolo ci sia uscita. Devo guardare in quel mobile che ho in camera. Ma che non ce l'hai tu. Va benissimo. Io ho un router nuovo della Telecom, l'ho installato e praticamente il segnale è a bomba, però non riesco a navigare. Allora ho rimesso il vecchio e sto usando un pennino con l'antennino. E sta navigando, non è velocissimo ma sta navigando, siamo dei documenti da guardare, adesso vedo un po' se riesco a risolvere. E beh, alla fine lo dico io, si può attaccare. Non è mio, me l'hanno prestato. Ah, faccio capire. No, ma sono tu, ma mi ha fatto una cosa qua con Twitter, però doveva finire, poi ho avuto problemi con la sorella, quindi ho dovuto andare, insomma, sono un po' così, tanto, vabbè, vediamo domani. Ma hai provato a resettarlo l'altro? Sì, aspetta, niente. Sì, quello bianco l'ho resettato e mi dà il segnale abbastanza forte. Cioè si connette, prima invece era questione di cavo e non so il perché, mi dava come se non ci fosse cavo. Adesso invece ho risolto quello, però sto navigando con anziché 7 con 4, con 4 mega, ma è certo l'importante è che si riesce ad andare avanti. Ah, beh, una chiavetta è così. Però anch'io una chiavetta del genere. Non stanno velocissima però. Vabbè, meglio di non averlo, però già c'è, insomma, almeno sta andando. Quello là era segnale pienissimo, solo di buco. Vabbè. Tontino. Attento, gruppo. Tontino. E giù. Finito, vetela. Devo... Sì, praticamente sì. Domani per una questione. Va bene. Allora, io sono in aspettativa ancora, chissà se ti. Ah, io siamo a gennaio. Vabbè, non sei neanche a dicembre, ma devi mangiarti il panettone. Te l'hai già mangiato il panettone. Ma poi c'è Pasqua, bisogna comprare l'agnello. Vabbè, l'agnello, non ci mangiamo l'agnello, ci mangiamo altre cose. Sì, già. Vabbè, se vengo per Rix che in un'altra frequenza c'ho gente che non, ma capisco l'uno e l'altro. Infatti io mi ho impostato tutti e due qua e così già stavo ascoltando anch'io. Tu cosa ti fa? Adesso provi a configurarlo nuovamente, magari si è depennato qualcosa. Ma non lo so, lui non mi metto a fare cose che non so, hai capito? Non è che già mi rompe le palle a me stare lì sempre a progettarlo, a farlo, quando è roba che non sai fare, non è fare, lo fai fare agli altri. Ma purtroppo anche gli altri hanno i loro impegni, quindi so, bisogna pazientare, bisogna aspettare, vediamo un pochino cosa vuoi farci. Vabbè, tanto sono qua, qui. No, perché anche questo qua vuole configurato, non è che l'attacco funziona, perché dipende dalle porte del computer come sono configurato. Giovanni! Sì, Cagliere! A te se ce l'ha la 27! Ehi, a me l'ha accesa poco fa perché non c'ero, capito? E adesso spendo questo e accendo quello là, no? Cuffo! Cuffo triste! Peppa! Mi nomi! Pesca, talpe! Ehi! E allora? Mi cuffo e... ma che grandi chiacchiere? Ehi, fatti di dire. Stai un po', siamo quasi peggio. E tu che sei il gumilini? No, sto cancellando qualche centinaio di foto dal telefono, video, tutte le cose. Poi abbiamo cantato fuori in casa e sono rientrato adesso. E dove? Il terrazzino? E il giardino, verso la data abbiamo mangiato il giardino. Ah, meglio. E lì siamo usciti da Zura. E ci stava bene anche in campagna a mangiare, vedi? No, sanno, che c'è? Se vuoi andare a casa, oh! Vabbè, dentro non c'è freddo, Basta aprire le due sportelli, gatta, mette la tenda sulla verandina e si sta bene anche lì. Gatta, però no, eravamo qua, vai. Va mio figlio, d'attore eravamo. E li siamo usciti adesso. Ah, no, ma io dicevo, in campagna la... al sole, con la giornata che c'era oggi, dico, all'aria aperta, con la casa, i barbecue. Ho finito il sole, cosa? È già di un brusa oggi, gatta. Dobbiamo fare la rima la sera, ma dopo è venuta gente, non ci ho potuto far scendere. Da anni fa, se ne può vedere, a fare giù, se a mangiare pure. Sì. Ehi, Beato, grazie, c'era la campagna. Ehi, lui è la campagna. E adesso ci ho cominciato a portare. Certo, piano piano, hai puntato tutto quanto, si verrà crollato a tagliare, bisogna tagliarlo, capito? Sì, tagliamo da sotto direttamente. Ma fatto in presa. E allora? Ehi, non vale la pena, non lo... perché la frutta fa piacere quando c'è. Ah sì, quello è vero. Mia Luca, le dai, me la cacco, cacomela. Ho piantato la pianta, due l'avevo messo e una mi è andata, l'altra è morta. Però, non ha mai buscio, già è migliore ancora. Comunque, la avrai manna. Se ne vuoi pure si vanno e me la compro qua come la. Ma secondo me non cresce dappertutto, Io penso che già 4 anni in Bariso, dove c'è Bolini che fumo, invece no. Poi l'uviore però non lo mantiene, capito? Forse anche il minore, boh, non lo so. Ecco, poi vedi una fotografia di Afferrari pure piena di gatto. Ma chi sa il bilonato per la bocca al pisino? A che paese comunque, com'era le passi appaggiate? Boh, pare strano. Ma tipo la gariaccia bisogna fare, sì. Ma quello è un cacco normale, un cacco vera appaggiato, boh. Vuol dire che ogni tanto lo compro giù la piazza per la piazza al vicino e vedo un po' così anda. Da me cresceva tutto, vai un gacco, vai la mela, vera, di tutto cresceva in questa zona, tutto, Nespole, cosa tutto non vira? Ehi, vai qui, bisogna passare tutto, a tagliare tutto quanto, a raso bisogna farlo, a ripiare, e ripulire tutto quanto e ripiazzare tutto, allora va bene. Un po' di freddo, vero, è vero, però già rimane un po' tappato, per un fosso rimane un po' tappato, no? La casa è nel fosso, sì, e io ci andavo con gli amici ai suoi tempi, verso novembre, così, che facevo fainé, pizza nel forno a legno dentro casa e ci bevevamo il vino appena fatto anche. Babbo, un macello. Cane non hai commentato l'altra, a me stanno basta canto in ira. Cane finito manco di minuto, boh, non fa maturato, forse perché l'ho innaffiato o la seccagna, capisci? Sono bacchisio lì, te ne può dare le dritte. Aspetta. Ti voglio a bocca l'altro cazzo ogni anno, cazzo. Boh, gliel'hai visto l'anno passato. Pure 2 anni fa, ma ho cambiato fino al macco e... pure mandalanzo, veramente a tutto finire l'anno passato. Niente. Oh, qualcuno gli ha fatto, ma è minuto, non fai la bella macchia di fanino. Non lo so. Se c'è Bacchisio, chiedi a lui, che lui è più informato. Ma va a finire un po', si continua a fare Eva. Ma cano che fai a cano, mi devi innaffiare per forza, Sì, no, quella gran carriera, vedo un po' ci sono in piazza, la piazza, perché hanno soffetto bene a cano, per cui, come agrumi, fa schifo quest'anno. Mai, ha giusto... gli agrumi come te che stanno, mai. Oh, non li ho innaffiati, più c'era la seccagna, che mi ha sofferto troppo, che a casa bisogna innaffiare pure, più che possibile. Lei, ma io potrei fare quel sacrificio quest'anno, e vediamo un po' all'anno prossimo. Vabbè. L'impianto a goccia buoni, automatico, come ti fate nei secchi, e andare giù, a orario. Adesso vediamo un po', cazzo. Chi ha ragione, voglia. Travaglia da voi, si separa un conto. Sente, io vi qua, anzi più belli, però, qualcuno che ne mangia la macchina, si è sicuro, roba doia e mangi e frutta magari non medicata ed è roba genuina, dai. Infatti. Adesso mettiamo un po' di galline lì. Chi ci sono che manca? Da poi vi fare due dalla magna ogni dia a pulire. Spera un attimo, Giovanni. Che te sei gufo? No, 27. Dove sono? Come sta? Sto partendo con la cassettina, ti mando la foto. Sì, io vado a casa, dai, ci sentiamo Mario, attacco da casa, ciao. Chi è? Avanti, chi è? Chi è? Il boia.